Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Gli scrittori più venduti al mondo, solo in Italia 24 milioni le copie dei suoi romanzi d'avventura. Lui è Wilbur Smith, sudafricano che ormai spesso vive in Gran Bretagna. L'ultimo romanzo si intitola Il Leone d'Oro, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Sara Caraffini. Qualche anno fa lo scrittore, che ormai ha superato gli 80 anni, ha annunciato che si sarebbe fatto aiutare da ghostwriter, perché insomma aveva ancora tante storie da raccontare e non aveva il tempo per raccontarle. Questo è il primo romanzo che viene ufficialmente cofirmato in copertina da un altro autore, Gilles Christian. Pare che ora il progetto di Wilbur Smith sia quello di sfornare un libro ogni 6 mesi, non più uno all'anno, grazie appunto all'aiuto di questi coautori. Veniamo a questo romanzo, Il Leone d'Oro. Stavolta Smith ci propone una nuova puntata della saga dei Courtney, la famiglia di navigatori le cui avventure si svolgono nell'Africa orientale nella seconda metà del 600. Protagonista è Al Courtney, sposato con una nobile guerriera etiope che combatte al suo fianco. Al è convinto di aver sconfitto il suo acerrimo nemico, l'avvoltoio, ma invece questi sembra rinascere dalle sue ceneri come una fenice. E ovviamente vuole uccidere Al e sua moglie. Come mai una nuova storia della saga dei Courtney? Lo ricordiamo, la saga con la quale Wilbur Smith aveva iniziato a pubblicare i suoi romanzi. Sentiamo che cosa ci ha detto durante il nostro incontro. La famiglia Courtney in un certo senso è la mia famiglia allargata, quindi torneranno sempre. Ci sarà sempre una famiglia Courtney finché io scriverò. Che cosa c'è di lei nella famiglia Courtney? Il primo Courtney che sia mai apparso è Sean, ne Il destino del leone, il mio primo romanzo pubblicato. E in effetti è molto vicino a me perché sono proprio io. Poi Courtney era il cognome di mio nonno, che è entrato a far parte della famiglia Smith. Gli altri li ho conosciuti man mano nel momento in cui ho iniziato a credere che Sean mi raccontasse la verità. In questo romanzo il protagonista è Al Courtney. Ci può descrivere un po' la sua personalità? Che personaggio è? Al è un uomo del suo tempo. Era un marinaio, appunto, come tanti britannici che avevano lasciato l'Inghilterra per andare in Africa. Era dotato di un fortissimo senso morale. Diciamo che se qualcosa andava bene per lui, doveva andare bene per tutti. Era convinto di fare del bene, e se gli altri non erano d'accordo, peggio per loro. In questo romanzo, un po' come negli altri suoi romanzi, c'è sempre un po' la lotta fra bene e male. In questo caso il personaggio buono, appunto il bene, Al Courtney, e invece c'è il cattivo, che lui pensava di aver già sconfitto. Come mai ha deciso di farlo ritornare, insomma, di farlo sopravvivere? I made him come back because he was an ideal villain for me. L'ho fatto ritornare perché rappresenta il cattivo ideale, un uomo veramente privo di qualsiasi senso morale, ossessionato dalla vendetta nei confronti di Al, e quindi diciamo che questa lotta tra i due mi sembrava ideale per il mio romanzo. La prima volta che è scomparso dalla storia, io avevo la sensazione che fosse sbagliato. E in effetti era proprio così, perché alla fine è tornato. È vissuto, morto, ritornato, sopravvissuto. E come dice Al, è bruciato vivo una prima volta su quella nave, una seconda sulla mia nave, e la terza volta brucerà all'inferno. He burnt the first time on his ship. He burnt the second time when he died on my ship. And he burnt the third time when he burnt in hell. I Courtney sono i primi personaggi che lei ha inventato nelle sue varie saghe. Come fa a tener viva ancora gli stessi personaggi, o comunque personaggi che sono legati a questa famiglia, perché ha scritto tante storie relative ai Courtney? I gave them life. I can kill them anytime I want to, and I can keep them alive if I need them. Io ho dato loro la vita. Io li posso ammazzare. Li posso tenere vivi se mi servono, ma diciamo che parliamo dei miei personaggi preferiti, i miei personaggi principali. Ho altri personaggi. Parliamo per esempio dei Ballantine, di Taita l'egiziano, che è appunto il personaggio mistico, mitologico. E poi c'è Hector Cross. In effetti voglio sempre avere tanti personaggi che attendono impazienti dietro le quinte e che si affollano a gridare «È tempo della mia storia! Adesso racconta la mia storia!» E diciamo che questo è un buon metodo, avere tante persone che hanno bisogno di te. My story next, and that's a good way, you know? Have a lot of people needing you. Ogni volta che si legge un suo libro si ha la sensazione che quello sia il suo personaggio preferito. L'anno scorso ci siamo incontrati sempre qui a Milano e avevo l'impressione che Taita e tutta diciamo la saga sull'Egitto fosse la sua preferita. Adesso invece ho la sensazione che sia la saga dei Courtney, magari poi in un altro momento quella dei Ballantine. Insomma, c'è un personaggio a cui lei è più legato che ad altri? No. I am in the fortunate position where I can discard one. No, non ce l'ho un preferito, perché ho la fortuna di potermi sempre permettere di scartare un personaggio, anche se so che non sarà per sempre. Posso comunque pescarne un altro che diventa, nel momento in cui racconto la sua storia, il mio preferito, perché ci convivo ogni giorno. Dopodiché lo metto a dormire, per così dire, e un altro viene avanti. Put that one to bed and another one steps forward. Come fa a scegliere una trama, l'idea di un libro, visto che ne ha scritti tanti e ci sono diversi personaggi seriali che quindi ritornano nei vari romanzi? Cos'è che le fa scattare un'idea? That is the mystique of the storyteller. Questo è proprio l'aspetto mistico, per così dire, del raccontare una storia. Ho sempre tantissimi personaggi nella mia mente e nella mia immaginazione e posso decidere di rivolgermi verso uno e porre tutta la mia attenzione su di lui, poi lasciare questo personaggio per un momento e prenderne un altro. Non mi va di esaminare, di investigare così nei dettagli come io riesca a sfruttare questa mia abilità, perché poi ho paura che mi svanisca tra le mani. Quindi non mi preoccupo mai di come io possa avere questa capacità o meno di raccontare le storie. So solo che funziona per me. Don't worry about my storytelling ability, I just know it works. Questa è la prima volta in cui lei scrive un libro con un altro autore che viene, il cui nome viene pubblicato appunto sulla copertina. Aveva dichiarato tempo fa che appunto si sarebbe avvalso di ghostwriter o comunque di altri scrittori per scrivere a quattro mani. In questo caso come vi siete divisi il lavoro? It was complicated. È stato complicato, ma anche facile. Io ho avuto l'idea, dopodiché ho scritto la mia bozza per lui, che ha scritto la sua parte, poi lui ha scritto quello che credeva essere il romanzo per intero, e io l'ho cambiato completamente. Beh, diciamo non completamente, ma in gran parte. Ma pensa che i suoi lettori possano essere un po' disturbati da questa scrittura a quattro mani, oppure pensa che abbiano ancora fiducia in lei? So far it's been published for in some other countries. Finora sta andando molto bene nei paesi in cui è stato già pubblicato. Ad esempio, è stato il numero uno per diverse settimane in Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, e anche in Sudafrica. E quindi è stato il numero uno in cinque paesi di madrelingua inglese. Per quel che riguarda il mercato italiano, vedremo. Ma io nutro fortemente la speranza che anche i miei lettori italiani continueranno a seguirmi. And we will see. But I have great hopes that my Italian readers will stick with me. All'inizio della sua carriera i suoi scritti furono rifiutati da diversi editori, che oggi sicuramente si mangeranno le mani, visto che lei ha venduto più di 132 milioni di copie, se non erro, in tutto il mondo. Come ripensa a quel periodo in cui i suoi scritti erano appunto rifiutati e nessuno voleva pubblicarla? Well, I don't think about that time. That time was a learning experience. Diciamo che non è che ci pensi molto, perché quella è stata un'esperienza, una fase di apprendimento. Era lì che stavo affinando, per così dire, i ferri del mio mestiere. E grazie al cielo è stato rifiutato. Quel libro non era assolutamente all'altezza degli standard. Ma subito dopo ho scritto Il destino del leone, che è stato accettato dopo cinque giorni e dopo un paio di mesi è stato pubblicato perché era sopra gli standard. Quindi ho imparato moltissimo da quel primo libro. Ed è per questo che non lo posso odiare del tutto, perché ho fatto tutti quegli errori che di solito un autore alle prime armi compie e non li ho mai più ripetuti nelle altre pubblicazioni. Lei ha scritto un articolo su un giornale italiano dicendo che il suo desiderio di leggere e di scrivere le è stato trasferito da sua mamma, che ogni sera le raccontava, le leggeva una storia. Pensa che questo può capitare, insomma, anche agli altri. Questo è un modo per, come dire, diffondere l'amore per i libri e la lettura. Sicuramente, perché quando mia mamma mi leggeva questi libri e da questi libri uscivano delle storie così fantastiche, per me diventavano una sorta di reliquie religiose, estremamente importanti. Ancora adesso, quando mi guardo intorno e vedo i libri, penso che siano una cosa meravigliosa. Sono il racconto di qualcosa dal punto di vista di una persona. E appunto questo mi ha aiutato a sviluppare una percezione particolare nei confronti dei libri e della letteratura. Tanto che quando mio padre mi ha chiesto che cosa volessi fare da grande, io avrei tanto voluto rispondere lo scrittore. Ma lo scrittore mi sembrava un po' su un piedistallo, una figura difficile da raggiungere. E così gli ho risposto di voler fare il giornalista, in modo da poter scrivere comunque. E mio padre ha detto: non essere sciocco, moriresti di fame con un mestiere del genere. E mi disse di cercare un lavoro vero. Così ho iniziato a fare il contabile, ma appena ho potuto mi sono ributtato sulla scrittura. E questo era Wilbur Smith, ora in libreria con Il Leone d'Oro, pubblicato da Lunganesi, consigliato naturalmente a tutti gli amanti dell'avventura. Una breve pausa, poi parleremo di una scrittrice esordiente. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Il cacciatore di libri. Parliamo di una scrittrice esordiente, Chiara Passilongo, 34 anni, di Verona. La sua opera prima si intitola La parabola delle stelle cadenti, pubblicato da Mondadori. È il romanzo che racconta la storia di una famiglia del nord-est, i Vicentini, che negli anni 70, grazie, diciamo, alla capacità del capofamiglia Achille, trasformano un piccolo laboratorio dolciario in una grande azienda, la San Lorenzo. La storia dell'azienda, ma anche la storia familiare e le vicende sentimentali dei figli gemelli, Francesco e Giulia, che sono molto diversi nel carattere, ma spesso entrambi in contrasto con il padre. Sullo sfondo, in questo romanzo, c'è la crisi economica degli ultimi anni, vista appunto da una famiglia di ceto medio, come ci racconta la stessa Chiara Passilongo. Questa storia nasce dall'osservazione della realtà. Io anche nella mia attività lavorativa negli ultimi anni ho avuto modo di riscontrare anche le difficoltà della gran parte, insomma, del ceto medio, persone che, insomma, mi dicevano che l'azienda li ha messi in cassa integrazione, oppure che i figli facevano fatica a trovare il lavoro, oppure avevano un lavoro co-co-co, al massimo precario, se non addirittura in nero quando c'era. E poi guardando anche i giornali negli ultimi anni, penso che era sotto gli occhi di tutti sempre questo parlare, adesso, qualche anno fa, dello spread continuamente, suicidi anche degli imprenditori, che purtroppo, insomma, continuano anche recentemente in Veneto, ne abbiamo avuto uno quest'estate. E quindi io volevo narrare questa realtà, questo impoverimento del ceto medio che vedevo intorno a me. Hai deciso di raccontarlo dal punto di vista di una famiglia di imprenditori, perché? Sì, perché comunque questo era il tema di cui volevo parlare, quindi l'ascesa e il declino di una famiglia, però non volevo che tutto il libro fosse incentrato solo su una tematica economica. Mi interessava molto indagare anche le relazioni tra i genitori e i figli, le varie vicissitudini anche dei figli che sono miei coetanei all'interno del romanzo, e insomma, le loro varie, diciamo, vicende, insomma, amorose o degli studi che decidono di intraprendere, anche della diversità dei due figli gemelli, Francesco e Gloria, dato che Gloria seguirà la strada che la famiglia ha preparato per lei, quindi continua a seguire le tradizioni e portare avanti l'azienda, mentre Francesco seguirà la sua strada e ovviamente inviso al padre, che lo vorrebbe a capo dell'azienda, invece lui deciderà di seguire tutta un'altra strada, ecco. Quindi volevo indagare queste due diversità tra i figli anche. Il capostipite, diciamo, della famiglia, appunto, di imprenditori è Achille. Che tipo è Achille e che rapporto ha, un pochino l'hai già anticipato, con i due figli? Una che decide comunque di seguire le orme paterne, uno invece considerato un po' il ribelle. Allora, Achille è un uomo vecchio stampo, direi che è proprio il capofamiglia di una famiglia patriarcale, un po' come quelle che esistevano una volta. È un irascibile, sanguigno, l'azienda è la famiglia è un'azienda, cioè vede proprio un'identità tra questi due elementi. Con i figli ha un rapporto di amore che però è un amore visto come possesso, infatti c'è anche una scena all'inizio quando nascono i bambini che lui li tiene in braccio e l'infermiera che vuole fargli delle ulteriori controlli, delle visite, lui quasi non vuole dare i figli all'infermiera perché teme che chissà cosa possa capitare, e quindi il suo più grande desiderio è quello che i figli portino avanti l'azienda di famiglia. Però quando poi Francesco, insomma, manifesta delle attitudini e delle inclinazioni diverse dai suoi desideri, ecco, il rapporto tra Achille e Francesco si incrinerà drammaticamente. Mentre la figlia Gloria è un po' la sua cocca, diciamo la cocca di papà, perché ha un carattere anche lei abbastanza simile a quello del padre, poi porterà avanti l'azienda, anche se poi, insomma, diciamo, non con esiti così fortunati. Ecco, ma come si intrecciano poi le vicende personali, le vicende familiari, soprattutto di questi due ragazzi che abbiamo detto sono i tuoi coetanei nel libro, perché sulla parte degli anni 80 di Achille immagino ti sarai dovuta un po' più documentare su come portava avanti gli affari, su com'era la situazione economica, sociale e così via. Beh, direi gli anni 80 li ho vissuti anche se ero molto piccola, però me li ricordo abbastanza, e degli anni 80 mi è sempre rimasto impresso il clima di grande ottimismo che si respira. Di euforia quasi. Esatto, che è un clima decisamente diverso da quello che respiriamo oggi, e quindi ecco, per me non è stato particolarmente difficile ricostruire quell'epoca. Certo, se penso alle dinamiche aziendali, che anche descritte in alcuni capitoli del libro, di cui, siccome io non vengo da una famiglia di imprenditori, su quello sì mi sono dovuta documentare, come del resto anche in tantissime altre cose che ho descritto nel libro. Faccio solo un esempio, siccome parlo della famiglia di industriali Dolciari, io ho cercato di visitare alcune aziende del territorio nel veronese che producono dolci, però insomma per vari motivi mi hanno detto che non era possibile, e alla fine quindi sono andata su YouTube a cercare proprio filmati che parlassero delle fasi produttive dei Pandori e Panettoni, e insomma ho passato dei pomeriggi. Ti sei dovuta documentare proprio a guardare questi filmati, e diciamo che insomma è stata magari la parte meno esaltante del processo di scrittura, però è molto utile comunque. Fondamentale. E poi ci sono appunto le vicende, come dicevamo prima, anche sentimentali di questi due ragazzi. Certo, che costituiscono anche una parte cospicua del libro, anche perché sentimentalmente non sempre le scelte dei figli sono congruenti a quello che Achille vorrebbe per loro. Per esempio, Gloria si innamora di un ragazzo con idee politiche completamente opposte a quelle del papà, e quindi il papà fa di tutto per ostacolare questa relazione. oppure Francesco scoprirà magari di avere delle inclinazioni, degli orientamenti sessuali diversi da quello che avrebbe desiderato da lui, e quindi questo genera tutto un grande conflitto. Ci ha messo parecchie cose: il conflitto generazionale, il conflitto per il lavoro, il conflitto anche dell'identità sessuale in questo caso. Sì, diciamo che nel mio libro ci sono molti molti temi. Mi interessava appunto indagare su il rapporto anche conflittuale tra un genitore come Achille, così sanguigno, conservatore, e i figli che cercano di seguire la propria strada, le proprie aspirazioni, magari in modo un po' più conformista di Gloria, e nel modo invece più radicale e anticonformista di Francesco. Perché questo titolo, La parabola delle stelle cadenti? Si sa che i titoli vengono spesso decisi dalle case editrici, magari non dallo scrittore, eccetera. È un titolo che secondo te rappresenta bene il cuore del tuo romanzo? Allora, posso dire che il titolo l'ho deciso io. Oh, allora, questa è una notizia, perché succede raramente che, soprattutto per gli esordienti, il titolo rimanga lo stesso. Il titolo è praticamente la seconda cosa che è venuta subito alla mente. La prima era il tema, cioè la storia dell'ascesa e della caduta di una famiglia, e pensando a questo tema direi che la parabola delle stelle cadenti mi sembrava calzante al punto giusto. E dal titolo poi sono venuti altri elementi del romanzo, come il decidere che i figli dovevano nascere il 10 agosto, cioè la notte di San Lorenzo, che poi l'azienda avrebbe preso il nome San Lorenzo, perché poi Achille, per la gioia della nascita dei figli, crea una tortina proprio a forma di stella cadente per celebrare la nascita dei figli, e quindi poi tutti questi elementi sono venuti successivamente. Però è stato proprio un flash, un'immagine, anche mi sembrava poetica, mi sembrava romantica, e quindi mi piaceva, e è stata una delle prime cose il titolo, sì. E questa era Chiara Passilongo. Il suo primo romanzo si intitola La parabola delle stelle cadenti, pubblicato da Mondadori. Chiudere, vi ricordo un appuntamento per chi ama i libri, la lettura: Umbria Libri a Perugia da venerdì 13 a domenica 15 novembre. Tema di quest'anno la Grecia. Non si parlerà tanto delle questioni economiche e sociali, ma si farà più che altro un percorso alla scoperta delle radici culturali dell'Europa, che appunto sono in Grecia. Ne discuteranno fra gli altri il filosofo Massimo Cacciari, il grecista Nicola Crocetti, lo storico Mario Torelli, ma ci sarà anche spazio per libri di narrativa con Nicola La Gioia, che è il vincitore dello Strega 2015, e il giallista Maurizio De Giovanni. Appuntamento dunque a Perugia dal 13 al 15 novembre. Finisce qui questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo come sempre che trovate il podcast di tutte le puntate su radio24.it, e per essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.